Come ti sentiresti se ti facessero credere di essere l'unica lesbica al mondo? E cosa accadrebbe se di colpo scoprissi migliaia di altre donne che vogliono condividere con te desideri, paure, vittorie e lotte? Oggi parleremo di lesbiche italiane, di rivoluzione, di autocoscienza, di desiderio, parleremo di separatismo, di lesbofemminismo e di moltissimo altro con Elena Biagini, compagna, attivista, insegnante e autrice di L'emersione imprevista, il movimento delle lesbiche in Italia negli anni 70 e 80, il primo testo che affronta in modo organico la storia del lesbismo italiano, il lesbismo politico italiano. Ciao Elena e grazie per essere con noi. Ciao e grazie a voi. Quella che state ascoltando è Pugno, la trasmissione di Radio Quar che tra un colpo al cuore e una alla testa prova a spingersi in profondità nel mondo LGBTQ. Io sono Siba e state ascoltando Pugno su radioquar.com o in podcast sulle principali piattaforme di streaming. Elena, partiamo dall'inizio. Chi era Maria Silvia Spolato e perché una figura così importante nella storia del movimento delle lesbiche in Italia? Maria Silvia Spolato è stata la prima donna, anzi per la precisione la prima persona che ha portato in una piazza politica la lotta LGBT, quella che oggi chiamiamo LGBTQ e che all'epoca, stiamo parlando del 72, avremmo chiamato liberazione omosessuale, o insomma omosessuale era la parola che si usava all'epoca. Maria Silvia Spolato, diciamo, oggi diremmo che appunto ha fatto il suo coming out nella manifestazione dell'8 marzo del 1972 a Roma, scendendo in piazza con un cartello in cui c'era scritto liberazione omosessuale, e questo, che noi sappiamo appunto, è stato il primo atto di visibilità politica dei movimenti di liberazione omosessuale nel nostro paese. E chi era Maria Silvia? Maria Silvia era una donna nata nel 35, quindi già abbastanza grande quando questo accadeva, era di Padova, ma diciamo che la sua esperienza politica è a Roma. E nel fuori è la prima organizzazione omosessuale italiana, che nasce alla fine del 71, nasce contemporaneamente in tre città, Torino, Milano e Roma, e diciamo legata al Fuori e a quello che noi rimane a noi del Fuori, c'è il giornale omonimo Fuori che viene pubblicato fino appunto dal numero zero del 71, e Maria Silvia Spolato è una delle redattrici fino da dall'inizio. La sua era stata Maria Silvia Spolato è anche l'autrice di un testo che esce anche quello nel 72, che è I movimenti omosessuali di liberazione, e proprio lei stessa ci racconta il suo percorso tra il 70 e il 72 quando era, diciamo, alla ricerca di una della costruzione di una soggettività omosessuale, perché prima, diciamo, la sua ricerca è nei gruppi femministi, poi decide che questo andava fatto fuori dai gruppi femministi, cerca di costituire nell'area romana un primo gruppo a cui lei aveva dato il nome Fronte di Liberazione Omosessuale, ma poi girando anche un po' per l'Europa, conoscendo per esempio i compagni e le compagne del FAR, del primo gruppo omosessuale francese, viene a sapere che anche in Italia c'è chi sta costituendo il primo gruppo, che appunto è il Fuori, e entra subito in contatto. Maria Silvia Spolato vive a Roma, anzi per la verità vive ai Castelli Romani, è attiva politicamente a Roma, fa l'insegnante, insegna matematica, è laureata in matematica, un'esperienza questa lavorativa che è anche abbastanza breve nel tempo, perché già nel 72 Maria Silvia Spolato viene sospesa dal lavoro molto probabilmente per la scomodità di avere un insegnante con questo tipo di visibilità, e quindi perde il lavoro e rimane però a Roma, rimane attiva politicamente per alcuni anni finché non se ne perdono le tracce, perché comincia a vivere una vita di strada, insomma vive per molti anni sui treni e per strada, fino a che a fine anni 80 non entrerà in un centro, insomma, a Bolzano, dove poi ha passato il resto della sua vita. È morta nel 2018. È una figura che è stata per tanto tempo dimenticata dai movimenti LGBTQ e poi ha avuto invece una sorta di riscoperta al momento della sua morte, una riscoperta che è stata anche mainstream e che quindi, come dire, a mio parere la riscoperta le ha anche dato poca giustizia, le ha reso poca giustizia nel senso che se ne è voluto fare, se ne è fatto soprattutto la vittima, no, della discriminazione per questa vicenda lavorativa. Ma io credo che sia importante anche ricordare che appunto Maria Silvia Spolaso è stata un'attivista importante che ha fatto della visibilità la sua scelta primaria, ha pubblicato quello che è il primo libro di movimento in Italia per quanto riguarda appunto i movimenti di liberazione omosessuale e appunto una redattrice del Fuori, una delle protagoniste, anche se a suo modo, di Sanremo, della prima manifestazione che c'è stata in Italia omosessuale, poi magari ne parleremo, e quindi non soltanto colei che appunto è stata discriminata, ma anche colei che proprio ha dato inizio a una serie di percorsi, a mio avviso, molto, molto importanti. In quegli anni, oltre a Maria Silvia Spolato, c'erano altre persone che si riunivano intorno alla realtà del Fuori, una serie di persone che hanno deciso di fare quella che viene considerata la nostra piccola Stonewall nostrana. Tu la citavi prima, il Congresso Internazionale di Sessuologia di Sanremo, il 5 aprile 1972, il movimento omosessuale italiano ha deciso di esserci e di intervenire. Di che cosa si tratta e che cosa è successo durante quelle giornate? Ma allora, a Sanremo era stato convocato appunto un congresso del CIS, del Centro Italiano di Sessuologia, un congresso che intendeva, il cui oggetto di studio era le devianze, e c'era un'intera giornata in programma dedicata alla cura dell'omosessualità. Niente di nuovo per quell'epoca, non niente di eccezionale, cioè era, come dire, in qualche modo la summa di come le scienze si occupavano dell'omosessualità. Quello che invece ci fu di nuovo fu fuori dal Palazzo del Congresso, che era il Casinò di Sanremo, perché appunto per la prima volta un gruppo di omosessuali decise di prendere la parola, proprio in senso stretto, nel senso che da Torino, dove si formava appunto uno dei primi nuclei del Fuori intorno alla figura di Angelo Pezzetti, partì un appello internazionale e un piccolo gruppo di persone, perché non erano grandi numeri, che provenivano dall'Italia, dalla Francia, dal Belgio, dall'Inghilterra, da cui arrivò Mario Mieli, che all'epoca faceva parte del Gay Liberation Front di Londra, contestarono questo convegno del CIS fuori dal casinò, ma anche dentro, perché alcune si erano iscritte a parlare e presero la parola dentro per dire da oggi in avanti di omosessualità parleranno le persone omosessuali. E la contestazione andò molto bene, nel senso che addirittura fece chiudere il convegno in anticipo e ebbe anche una risonanza, ci fu la stampa, ci fu anche una trasmissione Rai che poi ne dette conto. Maria Silvia Spolato, per ricollegarci a quello che stavamo dicendo prima, in molte raccontano che era stata lei a andare a Torino a raccontare al gruppo di Pezzana che ci sarebbe stato questo convegno. Poi Maria Silvia andò anche a Sanremo, ma diciamo che c'è stato un piccolo dibattito intorno alla presenza o meno di Spolato a Sanremo. Adesso, insomma, l'ultima scoperta, che è una lettera che ha trovato Nerina Milletti nell'archivio della Fondazione Saint-Tropez, una lettera proprio di Maria Silvia Spolato, la quale racconta racconta che è andata a Sanremo, ma è arrivata il 6 di aprile, perché il convegno durava 3 giorni, e quindi in questo modo si sarebbe risolto questo piccolo dibattito tra chi dice che c'era e che non c'era. Certamente c'erano altre lesbiche, siamo sicuri, insomma, della presenza di alcune lesbiche francesi, Françoise Dobon, un intellettuale che appunto collaborava col FAR, ma anche altre lesbiche del FAR che all'epoca avevano già costituito le Guin Rouge, che era appunto un gruppo lesbico nato dal FAR, e si pensa anche altre lesbiche italiane. Sottolineo questo perché sulla memoria della presenza delle lesbiche o meno a Sanremo, proprio negli ultimissimi anni, quest'anno che è stato il cinquantennale, c'è stato un certo dibattito. Anche se quello che io non capisco di questo dibattito, lo dico esplicitamente, è che ci sono le foto e nelle foto ci sono evidentemente delle lesbiche, quindi possiamo discutere su chi erano, ma dire che non c'erano mi sembra così un po' negare, insomma, le foto una loro veridicità ce l'hanno, ecco. Interessante quello che stai dicendo, perché la storia delle lesbiche è un po' una storia negata in generale e non raccontata, quindi è bene che ci siano delle persone come te che iniziano a documentarla o continuano a documentarla sempre di più in Italia. Tornando un secondo al Fuori, Maria Silvia Spolato era parte del Fuori e come citavi correttamente non era l'unica donna lesbica all'interno del Fuori. Quanto era forte, quanto era grossa la presenza delle donne lesbiche all'interno del Fuori e che cosa elaborò questa presenza? Allora, diciamo che le lesbiche nel Fuori ci sono sempre state, diciamo dall'inizio, che appunto è il dicembre 71, allo scioglimento che è nell'82. Insomma, per tutto quest'arco di 10 anni il Fuori è stata un'associazione mista di gay e lesbiche. Sicuramente la presenza delle lesbiche era una presenza minoritaria e anche abbastanza marginale poi nella costruzione di immaginari, nella rivista, nella proposta politica. Tanto che appunto, se dobbiamo dare un quadro un po' più vasto degli anni 70, delle lesbiche negli anni 70, possiamo riassumerlo dicendo che le lesbiche erano o nel movimento omosessuale, ma come presenza minoritaria e in parte marginale, o nel movimento femminista, dove erano sicuramente in massa, ma non sempre, o anzi quasi mai, visibili, dichiarate, e quasi mai il lesbismo era messo a tema dal movimento femminista, anche se quando si parla di femminismo negli anni 70 bisogna tener conto che è una storia in gran parte ancora da raccontare, perché dovremmo parlare di femminismi che cambiano a seconda delle aree geografiche, delle aree politiche, del momento, della fase degli anni 70, eccetera. Io con la frase che ho detto poc'anzi, insomma, ho cercato di fare una sintesi, ma poi esiste un quadro molto articolato. Per quanto riguarda il Fuori, le lesbiche appunto ci sono fin dall'inizio. Io nel mio libro ho cercato di raccontarle dividendole anche in fasi, nel senso che ovviamente ci sono varie generazioni che si alternano e diciamo che fino a arrivare agli anni 80, la prima fase, quella in cui di cui una è Maria Silvia Spolato, insomma, dei primi anni 70, è forse quella più conosciuta. Dopo tutta la storia del Fuori è un po' meno conosciuta, dopo il 74, quando nel 74 il Fuori si federa al Partito Radicale. Questa federazione non è condivisa da tutte le attiviste e tutti gli attivisti del Fuori, tanto che dal 76 poi comincia a formarsi un'altra area del movimento omosessuale, che è quella che possiamo definire marxista rivoluzionaria, che proprio per questo posizionamento politico non poteva riconoscersi in un'organizzazione che era federata al Partito Radicale. Questo cambia anche il Fuori, e soprattutto fa sì che in una prima fase fase il Fuori è l'unica organizzazione, e poi invece comincia a articolarsi una serie di gruppi. Le lesbiche nel Fuori, diciamo che hanno sempre avuto una difficoltà a emergere proprio per il numero abbastanza esiguo, e hanno anche sempre avuto un rapporto molto complesso con le femministe, perché il femminismo degli anni 70 tutto il femminismo degli anni 70 ha come pratica il separatismo. Le lesbiche del Fuori sono in un'organizzazione mista e quindi non vengono riconosciute dalle femministe come compagne femministe, e quindi per quanto la relazione ci sia per tutto l'arco dell'esistenza del Fuori, ma è sempre una relazione abbastanza problematica, con punte, diciamo, di conflittualità e punte di collaborazione a seconda dei momenti. Uno dei momenti importanti della storia delle lesbiche nel Fuori è stato sicuramente un numero speciale della rivista che è il Fuori Donna, che esce nel 74, e anche quello è quasi tutto imperniato nella relazione con il femminismo, che da una parte viene ritenuto fondamentale, dall'altra, come dicevo prima, appunto, ha sempre una sua problematicità. Per quanto riguarda la presenza sulla rivista, c'è sostanzialmente in tutti i numeri, anche se poi, se noi andiamo a vedere chi componeva la redazione, ci sono stati anni in cui non c'erano lesbiche presenti, ma nella maggior parte del tempo lo sono. E sulla rivista chiaramente parlano di lesbismo, di femminismo, della relazione tra lesbiche e gay, insomma, e anche di molti altri temi generali, ovviamente. Dentro quell'area invece omosessuale marxista rivoluzionaria, lo dico così in sintesi, quella che poi trova, come dire, la sua, nascono prima i collettivi omosessuali milanesi, di cui faceva parte Mario Mieli, diciamo che è la prima realtà che proprio si stacca dal Fuori, poi, diciamo, quella parte di movimento trova il suo luogo nel movimento del 77, e in quel movimento nasce anche un altro giornale che è Lambda, nella relazione con Lambda nasce un gruppo lesbico che io penso sia il primo gruppo lesbico italiano, sicuramente lo è se escludiamo quelli nati dentro il Fuori, che è Brigate Saffo. Ma se posso fare ancora un passo indietro per quanto riguarda invece le lesbiche nel Fuori, un'altra cosa importante da dire è che il Fuori era un'organizzazione nazionale in qualche modo, ma anche il Fuori, anche le singole città dove era presente il Fuori hanno tutte storie diverse, e anche le lesbiche delle singole città dove era presente il Fuori hanno storie diverse. Intendo dire che per esempio a Milano le donne del Fuori fin dal 74 costituiscono un loro gruppo che si riunisce autonomamente come Fuori Donna. Questo per esempio non succede mai a Torino e non succede mai a Roma, dove invece c'era Maria Silvia Spolato, che però faceva un'altra cosa. Maria Silvia Spolato frequentava il Fuori Romano, che era un gruppo essenzialmente maschile, ma frequentava anche il collettivo di Via Pompeo Magno a Roma, che era un collettivo femminista, e faceva anche un po' da trade union tra questi due gruppi, traghettando giovani lesbiche che arrivavano al Fuori verso il collettivo di Via Pompeo Magno. Quindi anche qui si tratta di tante storie, non di una storia univoca. Tu giustamente stai citando una serie di collettivi che negli anni 70 sono nati e si sono sviluppati. Qual era la situazione per le donne lesbiche negli anni 70 a livello sociale e a livello legale? Allora, a livello legale, la situazione era quella, insomma, come sai, come sapete, in Italia l'omosessualità non è mai stata perseguita per legge. Una legge che vietasse gli atti omosessuali in Italia non c'è stata neanche sotto il fascismo. L'oppressione verso le persone omosessuali in Italia è stata con altri strumenti, è stata con il silenzio, con la vergogna, con la psichiatria e con la Chiesa Cattolica sostanzialmente. La situazione delle lesbiche in Italia negli anni 70 era la conseguenza della situazione delle donne in Italia negli anni 70 e degli omosessuali, un po' un incrocio di queste due oppressioni, diciamo. Bisogna tener conto che fino a che non nasce il femminismo, fino a che non nasce il movimento omosessuale in Italia, che noi sappiamo ad oggi, non ci sono mai stati associazioni, luoghi di incontro, spazi collettivi per le lesbiche e delle lesbiche. Questo non è scontato, perché in altri paesi non è stato così. Per esempio, negli Stati Uniti la prima associazione lesbica, The Daughters of Bilitis, nasce nel 1955 ed era un'associazione che garantiva il collegamento tra le varie lesbiche. Ecco, questo in Italia non c'è stato assolutamente. E quindi era quella la situazione delle lesbiche in Italia, era una situazione di assoluto di cancellazione del lesbismo, di silenziamento, e quindi per la maggior parte delle lesbiche che hanno vissuto nel dopoguerra si trattava appunto di crescere in un contesto in cui ci si sentiva assolutamente sole, l'unica lesbica al mondo, come citavi nell'introduzione. Tanto che quando nasce il femminismo, quello che oggi chiamiamo femminismo storico, quello che possiamo dire che nasce all'inizio degli anni 70, per molte lesbiche che vi hanno avuto accesso, hanno vissuto l'arrivo al femminismo come una sorta di rinascita, perché sicuramente, anche se non c'era una visibilità lesbica, erano spazi, quelli femministi, che oggi chiameremmo safe, spazi dove era possibile viversi, vivere un amore per un'altra donna senza rischiare il manicomio. Immagino che trovare sui muri di Torino delle enormi scritte con scritto lesbica e bello, scritto dalle Brigate Saffo, o di andare in piazza e trovare i cartelli delle donne del Pompeo Magno con liberazione omosessuale fosse parecchio d'impatto all'epoca e fosse parecchio rivoluzionario nel contesto dell'epoca. Di che numeri stiamo parlando? Quante donne e quante lesbiche venivano coinvolte in questo tipo di associazioni e facevano parte di queste organizzazioni? Ma guarda, se parli del femminismo, sinceramente i numeri io non li so proprio fare, però in realtà si tratta di numeri abbastanza piccoli, anche se poi il femminismo, soprattutto nella seconda parte degli anni 70, c'è stato un femminismo diffuso. Però ricordiamoci sempre che l'Italia è un paese, uno stato fatto di tanta provincia, e quando si parla di questi movimenti il grosso poi lo si vede nelle grandi città, che sono Roma, Napoli, Bologna, Firenze, Milano, Torino. Tutto il resto sì, c'era, ma con altre scale, diciamo, per quanto riguarda il femminismo. Ma mentre, non lo so, in una città come Roma, nella seconda metà degli anni 70, dai racconti che ho potuto raccogliere, non c'era liceo che non avesse un collettivo femminista, non c'era facoltà universitaria, tantissimi erano anche i posti di lavoro dove c'erano i collettivi femministi, eccetera. Ma se parliamo dei primi anni 70, già i numeri invece sono abbastanza più contenuti, e se parliamo poi di lesbiche che come tali si attivano, ma guarda, negli anni 80 arriveremo a parlarne, quando si articola un vero movimento lesbico che è stato il lesbofemminismo, si parlava di 400-500 donne. L'8 marzo del 1972 a Campo dei Fiori c'è quella che è stata considerata un po' la prima manifestazione mediatica del femminismo italiano, una manifestazione in cui la polizia attaccò le compagne, spaccò qualche testa e fu piuttosto violenta come momento. Una manifestazione che poi diede anche vita a una serie di conseguenze all'interno del movimento delle donne italiane e anche all'interno del movimento delle lesbiche italiane. Che cosa successe dopo quella manifestazione e che tipo di esigenze e che tipo di bisogni portavano le donne lesbiche a unirsi e a creare associazione? Ma l'8 marzo del 72 ancora, diciamo, l'unica lesbica che emerge è Maria Silvia Spolato, altre sicuramente in piazza c'erano, non lo dico per induzione, lo dico perché so che c'erano, ma non erano, come dire, visibili come lesbiche, si ponevano come femministe in quella piazza. Era un percorso che cominciava, dici bene, che era stato un po' il lancio mediatico del femminismo, lo è stato anche un po' per caso, lo è stato per la presenza di Jane Fonda in quella piazza. E quindi i giornalisti, attirati dalla star internazionale, hanno dato finalmente visibilità a un movimento che era già diventato importante, quello femminista. Le lesbiche dentro il movimento femminista degli anni 70, innanzitutto cosa portano? La necessità di esistere, di poter vivere, di poter trovare uno spazio per sé. Più che specifiche richieste, questo ha dato, io direi, il femminismo alle lesbiche in Italia, la possibilità di esistere, che direi è molto, ecco. Il bisogno di socialità, il bisogno di anche visibilità, di raccontarsi come lesbiche, di raccontarsi e di confrontarsi con altre lesbiche, visse anche a un certo punto, verso la fine degli anni 70, una stagione in cui una serie di eventi, come per esempio i primi campeggi gay, ma successivamente anche i primi momenti di socialità pubblica, anche delle lesbiche, videro la luce. Nel 79 ci fu quello che è considerato storicamente il primo campeggio gay italiano a Capo Rizzuto, organizzato tra gli altri da Felix Cossolo, e all'interno di questo campeggio c'era già una presenza di una ventina di donne lesbiche. Quanto questo fu significativo all'interno di quella realtà e quanto poi portò dopo questo campeggio, che cosa successe dopo? Sì, diciamo che io penso che il bisogno di socialità sia stato un motore molto forte, tanto che anche gli incontri, le assemblee, i convegni che per quanto riguarda le lesbiche cominciano, diciamo, nella seconda parte degli anni 70, rappresentano molto questo. O anche i grandi raduni femministi, no? In Italia per tutti gli anni 70 ci sono stati costellati da grandi incontri, diciamo, nazionali o internazionali. Si è partite dall'andare in Francia nel 72, in Vandea, dove c'è stato un grande incontro femminista organizzato dal Mouvement de Libération des Femmes francese, agli incontri a Pinarella di Mare nel 74 e nel 75, poi Pestum. Erano grandi incontri politici del femminismo, ma rispondevano anche a un bisogno di socialità anche delle lesbiche, che ovviamente andando nei raduni femministi poi incontravano anche altre lesbiche. Nel 78 Brigate Saffo, che appunto è questo collettivo di lesbiche che è nell'area del giornale Lambda, lancia l'idea di un convegno di lesbiche a Torino. Loro stesse raccontano che si aspettavano che arrivassero una ventina di compagne, sono arrivate 200 donne, loro sono state travolte da questo numero, grazie al tamtam, ai giornali, alle fanzine, soprattutto al tantam, e questo però ha dimostrato che evidentemente c'erano compagne lesbiche che si stavano muovendo e che cercavano luoghi di confronto, di socialità, e li cercavano sia negli spazi femministi, come ho detto prima con i raduni, sia negli spazi del movimento omosessuale, quindi tanto che qualcuna arriva anche al campeggio di Caporizzuto del 79, anche se anche lì nelle occasioni, diciamo, proprio aggregative, nelle vacanze organizzate eccetera, la commistione gay lesbiche non ha funzionato molto, tanto che perché appunto io non ho conosciuto le 20 lesbiche che sono state a Caporizzuto e magari si sono divertite tantissimo, però diciamo che ci si è col tempo di più organizzate per contesti di sole lesbiche, contesti separatisti e contesti di sole lesbiche. In particolare, per fare il parallelo con Caporizzuto, c'è stato un campeggio lesbico nell'83 a Principina, in provincia di Grosseto, che è stato un incontro, insomma, molto importante, che è stato ricordato da tante, perché erano tante, perché lì il bisogno di socialità aveva una risposta molto forte, e questo accadeva in Italia ma accadeva anche altrove, tanto che l'idea di organizzare questo campeggio nell'83 a Principina viene da alcune compagne romane che erano state in un campeggio in Francia, a Lesier, 2 anni prima, ed erano rimaste, come dire, affascinate da questa esperienza che avevano fatto in questo luogo tutto di lesbiche. Che cosa succedeva all'interno di questi campeggi? Che cosa veniva fatto? Che tipo di socialità veniva portata avanti? Ma diciamo che per quello che io ho potuto capire, il cuore era il fatto di essere tutte lesbiche, di non essere sotto, come dire, il controllo e l'oppressione eteropatriarcale, di poter stare insieme nude, di conoscersi, di conoscere altre, di ballare, cantare. E poi, per esempio, per quanto riguarda Principina, c'erano anche dei momenti più organizzati, più politici, in particolare, per esempio, lì si discusse del Sottosopra Verde, che era l'evento politico di quell'anno, però il grosso era stare insieme in uno spazio che permettesse di non dover, come dire, che non fosse solo lo spazio assembleare, no? Perché altrimenti fino a questi campeggi gli incontri erano tutti collegati all'idea di un confronto assembleare, mentre in un campeggio al mare il protagonista diventa il corpo. Il protagonista diventa il corpo, e da questi campeggi poi nascono anche una serie di riflessioni, una serie di relazioni che vengono portate anche poi nelle assemblee, nei collettivi, e continuano a esistere anche al di là del campeggio, se ho ben capito. Sì, sicuramente erano anche luoghi di confronto, di scambio. Del resto, come dire, questo doppio ruolo, no, dei contesti nei movimenti LGBTQ, anche che ho conosciuto io, c'è stato per tanto tempo, forse oggi è un po' diverso, ma anche negli anni 90, voglio dire, andare a un'assemblea nazionale significava sicuramente andare a un confronto politico, ma significava anche conoscere altre lesbiche, nel mio caso, o altri gay in altri casi, significava andare a ballare, significava la parte di aggregazione e di socialità, e la parte politica credo si siano sempre mischiate. Si sono mischiate anche sui giornali che venivano prodotti in quegli anni. Mi viene in mente una serie di pubblicazioni in cui c'era anche una parte del giornale dedicato a quello che noi definiremmo annunci personali, o comunque annunci di ricerca di altre lesbiche sul territorio. In un'epoca in cui non c'erano i telefonini, non c'era internet, le telefonate venivano fatte con il gettone nella cabina telefonica, telefonica, esistevano comunque delle pubblicazioni, dei giornali spesso autoprodotti o comunque con pochissimi finanziamenti, che davano spazio anche a questa ricerca di socialità. In alcuni casi alcuni collettivi, alcune realtà sono nate attraverso questi piccoli annunci. Quanto era diffusa questa pratica e che cosa hai trovato durante le tue ricerche? Ma la pratica era molto diffusa, anche perché gli anni 70 è stata un'epoca di esplosione proprio del numero di riviste, delle riviste autoprodotte, delle fanzine, in questo anche per le lesbiche hanno rappresentato uno strumento molto importante. Già appunto il Fuori si qualifica con la pubblicazione di un giornale che appunto è Fuori. Brigate Saffo collaborano a Lambda e escono con un supplemento lesbico di Lambda che appunto si chiamava Brigate Saffo per alcuni numeri. Poco più avanti un altro giornale molto importante che è stato proprio, come dicevi tu, propulsore, moltiplicatore di movimento in qualche modo anche per le lesbiche, è stato Quotidiano Donna. Quotidiano Donna era un periodico femminista autoprodotto, autogestito, che veniva pubblicato al Governo Vecchio. Il Governo Vecchio era la sede del movimento femminista romano, per dirlo un po' in sintesi. Era un palazzo occupato nel centro di Roma, in via del Governo Vecchio, dove hanno avuto sede fino a 80 collettivi, e uno di questi era la redazione di Quotidiano Donna. E dentro Quotidiano Donna non solo per un anno ha avuto spazio la pagina lesbica, cioè una pagina autogestita da compagne lesbiche che erano al Governo Vecchio, ma fin dall'inizio insomma c'è stato spazio per esempio per gli annunci di chi in varie città d'Italia voleva magari incontrare altre lesbiche per costruire gruppi lesbici. È stato questa per esempio quello che è successo a Firenze nel 79. Alcune mettono un annuncio su Quotidiano Donna perché intendono cominciare a vedersi come lesbiche, e altre recepiscono questo annuncio e nasce Realtà Lesbica, che è il primo gruppo lesbico a Firenze, che si ritroverà nella casa di Via di Novoli, che era insomma una sede del movimento femminista fiorentino. Ma Quotidiano Donna è sicuramente il mezzo con cui queste compagne si sono conosciute, non solo nelle singole città. Questo giornale, come altri successivamente, possono svolgere questo ruolo, ma Quotidiano Donna ha svolto anche un altro ruolo, cioè quello di costruire un contesto nazionale, nel senso che i collettivi lesbici non solo nascono nelle singole città, ma vengono a sapere l'uno degli altri grazie alle pagine del giornale. C'è un testo sulla storia di Quotidiano Donna che è stato scritto insomma da una delle redattrici di questo, una delle ideatrici, che era Adele Cambria, che ha scritto proprio la storia di Quotidiano Donna, un libro che ha una decina d'anni. Quindi di fatto era uno strumento per conoscere meglio cosa stava succedendo sui territori all'interno dell'Italia e anche all'estero, perché poi venivano proposte traduzioni di articoli, di saggi, di poesie anche provenienti da altri stati, ma anche uno strumento per mettere in comunicazione, per fornire un canale di incontro alle lesbiche sui vari territori, nelle varie città, che volevano creare qualcosa, che volevano incontrarsi, che volevano costruire un percorso insieme. Quotidiano Donna, tutta questa parte di circolazione di documenti, eccetera, è più forse di altri giornali che di Quotidiano Donna. Per quanto riguarda le femministe, EFFE, che comunque è il primo giornale proprio a tiratura nazionale, che esce dal 73, e per quanto riguarda le lesbiche, per qua, il bollettino del CLI di cui insomma avrei parlato adesso. Quotidiano Donna è da molto spazio sicuramente ovviamente a tutta la politica femminista, alla politica e alla cultura femminista, ma appunto anche all'auto-organizzazione sui territori, e questa auto-organizzazione nel momento in cui esiste Quotidiano Donna è anche lesbica, perché Quotidiano Donna comincia a uscire nel maggio del 78, quindi siamo già a fine anni 70. E non solo, Quotidiano Donna nasce dentro l'occupazione di Governo Vecchio. Dentro l'occupazione di Governo Vecchio a Roma ci sono le prime esperienze del movimento lesbico romano, Artemi delle Furie, che forse è il primo gruppo in assoluto, e quindi queste compagne cominciano a scrivere sul giornale. In altre città questo giornale comunque arriva, perché arriva attraverso soprattutto la diffusione militante, viene distribuito Quotidiano Donna, quindi arriva attraverso i collettivi femministi delle varie città. E quindi le lesbiche che in altre città iniziano, ho parlato di realtà lesbica di Firenze, ma posso parlare anche di un gruppo milanese che si chiamava Da Donna a Donna, anche di un gruppo napoletano che si raccoglieva all'Anyway, che era un locale. Queste donne leggono Quotidiano Donna e, vedendo che ci sono delle presenze lesbiche, mettono lì gli annunci per far partire gruppi nelle proprie città, e quindi si costruisce un fenomeno per cui non si costituisce un gruppo isolato dagli altri, ma il giornale è l'occasione con cui le une vengano a sapere delle altre. Quotidiano Donna non è una rivista estremamente che dura molto nel tempo, no? Inizia nel 78 e l'ultimo numero è dell'82, ma insomma i numeri in cui esce ha subito anche una forte repressione politica Quotidiano Donna, ma gli anni in cui esce con più continuità, insomma, sono il 78, il 79 e l'80, poi cominciano a essere più rarefatti i numeri, ma nell'81 esce il primo giornale che possiamo, insomma, autonomo lesbico in Italia, che è il bollettino del CLI. Allora, il CLI intanto è un gruppo lesbico che nasce nell'81 al Governo Vecchio. CLI significa Collegamento Lesbiche Italiane. Collegamento Lesbiche Italiane già nel titolo, nel suo nome, porta, come dire, il suo obiettivo principale, cioè quello di mettere in collegamento tra loro le lesbiche, e il bollettino è lo strumento principale con cui questo collettivo porta avanti questo suo obiettivo politico. È un giornalino, direi, che è in formato pocket, autoprodotto, che ha delle tirature abbastanza basse in realtà, perché si tratta di un'autoproduzione e di un'autodistribuzione, ma come dicevi prima tu, ha una grande rilevanza per le lesbiche politiche in Italia, perché non solo mette in collegamento le città, i collettivi che nascono in quel momento nelle varie città, ma permette di collegarsi alle altre, anche a lesbiche che abitano in città dove i collettivi non ci sono e dove che magari invece frequentano gli incontri nazionali. Come dicevi tu prima, fa circolare anche documenti politici in traduzione, in un'epoca in cui, lo ricordiamo ancora, non c'era internet, leggere un testo tradotto di Audre Lorde, come appunto è successo, o di Adrienne Rich, non era banale, ecco, non era banale scoprire che esisteva, avere accesso al testo e magari avere le conoscenze della lingua per poterlo leggere, mentre il bollettino appunto li fa circolare, e fa circolare anche per esempio le poesie, no, i racconti, perché anche il bollettino ha, come dire, vari livelli di come si può dire, di uso, no? Lo usano le militanti in senso stretto, che attraverso quelle pagine si confrontano e attraverso quelle pagine si formano, lo usano quelle che sono appena arrivate, che magari cercano più una conferma alla propria identità e confronto con altre, e quindi magari trovano più vicine a se stesse forme d'espressione come la poesia o il racconto. Questa differenza, questa separazione tra le militanti e le lesbiche, che invece cercavano principalmente un momento di socialità, un momento di confronto con altre lesbiche, negli anni 70, da quello che leggevo sul tuo libro, che ricordiamo è l'Emersione imprevista, da cui stiamo tirando fuori alcuni dei punti salienti durante questa intervista, negli anni 70 non era così marcato, mentre invece mi sembra di aver capito da quello che racconti che negli anni 80 la divisione tra, in qualche modo, organizzatrici di collettivi, di associazioni, e le persone che frequentano in modo un po' più passivo questo tipo di realtà si fa più marcata. È realmente così, e da che cosa è dovuto a questo cambiamento? Sì, è così, nel senso, è così nei fatti, tanto che quando io ho intervistato lesbiche che hanno dato vita ai primi gruppi lesbici in Italia, quelli del lesbofemminismo, di cui il collegamento Lesbiche Italiane è sicuramente il gruppo più importante, insomma, diciamo, il nucleo propulsivo, quando ho intervistato, dicevo, alcune di coloro che questi gruppi hanno fondato, mi raccontavano che avevano trovato anche un certo disagio, no? Nel trovarsi catapultate dalla realtà a cui erano abituate negli anni 70, che erano quelle del collettivo politico, del piccolo gruppo che è collettivo politico, che fa dell'orizzontalità e della circolarità proprio il proprio modo di essere. Ha invece forme, una volta che questi piccoli gruppi non sono più gruppi d'autocoscienza o collettivi femministi, ma tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 questi diventano gruppi lesbici che si propongono all'esterno come tale, come tali, comincia a mostrarsi, a essere visibile una differenza tra chi fa il gruppo e chi lo frequenta. E chi lo frequenta cerca, o da una parte cerca socialità, cerca di conoscere altre lesbiche, o talvolta cerca anche proprio un aiuto, un appoggio, no? Faccio un piccolo passo indietro. Nell'81 vengono organizzati a Roma due convegni lesbici. Possiamo dire che quell'anno e questi due convegni sono l'inizio del lesbofemminismo, che è il primo movimento autonomo di lesbiche che nasce in Italia. Quando dico autonomo, intendo autonomo dal femminismo e dal movimento omosessuale, nel senso che negli anni 70 le lesbiche avevano militato nei gruppi omosessuali o nei gruppi femministi o in entrambe. Tra il 79 e l'81 comincia un percorso che porterà a gruppi lesbici separatisti, che si definiscono lesbofemministi perché hanno evidentemente nel femminismo il proprio interlocutore principale. Ecco, questo movimento ha il suo varo, diciamo, in questi due incontri che si svolgono entrambi a Roma, entrambi al Governo Vecchio. Il primo è a giugno dell'81, nei giorni del 28 giugno, un fine settimana, e viene organizzato dal collettivo di Via Pompeo Magno. Dal collettivo di Via Pompeo Magno, nella sua interezza, cioè non solo dalle lesbiche del collettivo di Via Pompeo Magno, ma da tutto il collettivo, e viene pensato come un confronto sul lesbismo più che di lesbiche. Ma nonostante sia nato così, purtroppo di quel convegno non ci rimangono atti, niente, quindi ci rimangono solo i preziosissimi racconti di chi l'ha vissuto, pur essendo lanciato in questo modo, di fatto arrivano innanzitutto tante persone, tante lesbiche, e nei fatti è un incontro di lesbiche, e quelle che lo avevano organizzato, alcune mi raccontavano che è come se per loro, che vivevano a Roma, erano per lo più universitarie o comunque avevano fatto l'università, frequentavano i luoghi del femminismo ormai da 10 anni, è stato, loro mi dicevano, un po' come scoprire la condizione lesbica, cioè scoprire la sofferenza, l'isolamento, la marginalità di chi non aveva avuto quella stessa esperienza, arrivava magari dalla provincia, ma aveva letto sui giornali del femminismo, magari su Quotidiano Donna, su F, sul No Donne stesso, che era il giornale dell'Udi, di questo incontro, o sul, era uscito anche sul Manifesto, su Paese Sera, e era andata a Roma, e chi le aveva accolte, appunto, in qualche modo aveva scoperto la condizione lesbica, nel senso che queste non erano compagne che avevano un percorso politico che attraverso il quale volevano confrontarsi con altre, ma erano lesbiche che cercavano uno spazio per viversi, sì, conoscere altre e confrontarsi, ma portando con sé una condizione più che un bagaglio politico. Questo appunto è nel giugno dell'81. Poi alla fine di dicembre c'è il secondo convegno, che questa volta invece viene proprio indetto come convegno di donne lesbiche, si chiama così, e viene indetto da un gruppo, come dire, da le riunioni che costruiscono questo convegno vedono dentro lesbiche del Pompeo Magno, altre che si ritrovano allo Zanzibar, che appunto è un locale ma di movimento, altre del governo vecchio, altre ancora che proprio da quel percorso costituiranno il CLI, il Collegamento Lesbiche Italiane, cioè il primo gruppo propriamente lesbico a Roma, che appunto si trova a sono tornata al convegno perché mi sembra che renda più esplicito cosa vuol dire, no, poi questa differenziazione di ruoli dentro i gruppi lesbici, perché aprire con questa parola significa anche essere poi raggiunte da lesbiche che non avevano un percorso politico, magari non avevano mai fatto passaggi nel femminismo, ma che cercavano altre per poter vivere meglio. Quello che mi ha colpito è stato poi leggere, è uscito dopo del mio libro, uno dei testi di Massimo Prearo, La fabbrica dell'orgoglio, che parla con un taglio sociologico del movimento gay tra fine anni 70 e inizio anni 80, e ritrovare una dinamica molto simile a quella che io ho cercato di descrivere adesso. Quindi diciamo che questo passaggio, questa differenza tra il collettivo anni 70 e il gruppo anni 80, Massimo lo legge anche nel movimento gay, quindi evidentemente ha a che fare, come dire, con un passaggio d'epoca, e probabilmente anche con un allargamento del numero delle persone che potevano arrivare a questi luoghi. Alla fine degli anni 70 nacquero anche una serie di realtà come per esempio i centri sociali che vediamo tra il 75 e il 76 a Milano, con l'esperienza del Loncavallo, col Cox e con una serie di locali occupati, in alcuni casi solo da donne. Alla fine degli anni 70, oltre a queste esperienze, si affiancano anche realtà commerciali, iniziano a esserci i primi locali per sole donne, iniziano a esserci i primi club per sole donne e in alcuni casi anche per sole lesbiche, più o meno esplicitamente. Che tipo di impatto hanno avuto questo tipo di esperienze e come sono nate queste esperienze? Anche qui diciamo nascono in tanti modi diversi, nel senso che ci sono alcuni luoghi che sono proprio che nascono proprio nel movimento in qualche modo. Uno di questi sicuramente è lo Zanzibar a Roma, che ho citato prima, che è un locale, ma è un locale aperto da due compagne lesbiche, è un locale aperto a tutte le donne, quindi separatista. Ma molto frequentato dalle lesbiche e frequentato, per quanto appunto anche qui il meccanismo è un po' quello che ho cercato di descrivere prima. Zanzibar nasce dentro il movimento in qualche modo, ma il sabato sera Zanzibar si riempie di tante lesbiche che arrivano da tutta Roma, anche dalla periferia, in cerca di un posto dove ballare. Per esempio, mi raccontavano che per Zanzibar, a Zanzibar erano molto importanti i lenti, perché per una donna che voleva ballare un lento con un'altra donna non c'erano altri luoghi, ecco, mentre a Zanzibar si poteva fare. E altre esperienze invece proprio di locali più commerciali, meno legati al movimento, il Sottomarino Giallo a Milano forse è stato il più famoso di tutti, e diciamo che non li ho studiati particolarmente, ma penso che nascano perché evidentemente qualche piccolo imprenditore coglie che c'è un mercato in qualche modo, no? Sicuramente ci sono invece appunto tanti luoghi che sono appunto vicini al movimento. Ho citato Zanzibar, si può citare il CCIP a Milano, che peraltro è durato molti anni, ha chiuso negli anni 2000. Si può citare un altro locale che si chiamava L'Ovo a Torino, e poi l'altra ce n'è stato un altro in un secondo momento sempre a Torino, diciamo che il Chadamaré a Firenze, che anche questo era un luogo insomma dove si faceva musica, si beveva, ci si incontrava eccetera, in piazza Santo Spirito a Firenze, ma nasceva da compagne che erano state in realtà lesbica e che quindi proprio per questa loro frequentazione del movimento volevano, come dire, costruire dei luoghi in cui ci si potesse incontrare al di là della dimensione assembleare, anche in questo caso. Fino ad ora hai parlato principalmente delle realtà presenti nel nord e nel centro Italia, hai parlato di realtà su Roma, su Milano, su Torino, Firenze. Qual era la situazione nel sud Italia? La situazione nel sud Italia, diciamo, è stata una situazione... è esistito un movimento delle lesbiche nel sud Italia, anche nel sud Italia, soprattutto negli anni '80. Chiaramente se le prime città sono Torino, Roma, Milano, non è un caso, perché poi quando si parla di aggregazione lesbica bisogna fare i conti con l'accesso allo spazio pubblico che hanno le donne prima ancora che le lesbiche, e sicuramente nelle piccole città di provincia del sud o anche di certe parti del nord questo accesso è sicuramente minore. Una storia: il primo gruppo lesbico del sud Italia è il collettivo Le Papesse, che nasce a Catania negli anni 80, anzi c'è un primo tentativo di far nascere un collettivo lesbico già a fine anni 70, nel 79, ma diciamo viene scritto un volantino, distribuito, ma va un po' a vuoto il tentativo, e poi nei primi anni 80 da lesbiche che fino a quel momento militavano nel movimento femminista viene appunto costituito questo collettivo che si chiamava appunto Le Papeste, che dura alcuni anni e che ha anche una vita abbastanza, come dire, un percorso abbastanza diverso da quelli di altri collettivi, perché nella seconda parte della sua, del suo percorso, sto parlando della metà degli anni Ottanta, soprattutto si concentra in attività culturali e riceve anche per esempio finanziamenti dagli enti locali, che era, come dire, modalità che non erano assolutamente praticate da altri collettivi. E Catania in particolare è stato un luogo importante, insomma, per il lesbismo italiano, anche per la vicinanza, per esempio, anche per la vicinanza con Comiso, e quindi per la lotta antimilitarista, antinuclearista che c'è stata in quell'area tra fine anni 70 e inizio anni 80, che ha avuto anche un suo specifico femminista, separatista, e anche un suo specifico lesbico, con un collegamento, diciamo, con le lesbiche di Greenham Common in Inghilterra, che è stato un altro capitolo molto importante, insomma, delle lotte femministe e lesbiche anche nel Regno Unito. Comiso, lo si ricorderà, insomma, è una base militare dove furono portati delle testate nucleari, e c'è stata una grande lotta contro queste testate nucleari. Una parte di questa lotta è stata appunto femminista, è stata portata avanti anche attraverso l'acquisto, questo era una pratica generale in quegli anni, si acquistava la terra intorno alle basi militari, e una parte di questo acquisto fu fatto da sole donne. In mezzo a questo terreno c'era anche una casa che fu chiamata la Ragnatela, dove appunto si fermavano le femministe che facevano i campi contro antimilitaristi, e in particolare ci fu un gruppo che veniva dal Regno Unito, dove c'era appunto un'esperienza analoga a Greenham Common, che è stato, come dire, una tappa importantissima nel movimento femminista inglese e anche del movimento lesbico. Queste compagne che arrivavano da Oltremanica erano per lo più lesbiche e avevano anche, come dire, una pratica politica che portavano, no, dall'Inghilterra, che era una pratica molto determinata, insomma, entrarono dentro la centrale, sono state fra l'altro espulse dall'Italia e processate l'anno seguente. Questo è un capitolo che forse nella conoscenza andrebbe anche approfondito. È un capitolo bellissimo, tra l'altro nel tuo libro ti ringrazio per averlo citato, perché racconta un'Italia che sembra molto lontana, ma che in realtà è molto vicina, una serie di esperienze molto forti, radicali, di donne, di lesbiche all'interno di un territorio militarizzato, che in quegli anni, da quello che racconti, era una pratica piuttosto comune. Nel tuo libro racconti molto questo tentativo di unire le lotte delle lesbiche con altri tipi di lotte, altri tipi di movimenti che esistevano in quegli anni. Negli anni 70 poteva essere il movimento per il salario delle casalinghe, piuttosto che i movimenti di operaie, di lavoratori, e poi appunto negli anni 80 racconti in modo molto, molto interessante, di cui io non sapevo assolutamente nulla, di questo tipo di unione, collaborazione molto forte di donne, di lesbiche e di movimenti antimilitaristi in Italia. Ma guarda, per la verità, quando io sono stata a Catania per fare alcune interviste per il mio studio, e io l'ho scoperto andando a Catania, non ne avevo conoscenza prima, anche se poi leggendo i giornali dell'epoca, leggendo anche Quotidiano Donna, delle lotte antimilitariste ne dà conto abbastanza, ma questo dello specifico intorno a Comiso anche per me è stata una scoperta anche piuttosto emozionante. Insomma, credo che avrebbe un suo rilievo storico andare negli archivi del Tribunale di Ragusa a vedere gli atti del processo a queste 13 a queste 12 lesbiche che furono espulse dall'Italia. Mi viene quasi spontaneo a questo punto chiederti perché secondo te c'è questa continua rimozione della storia lesbica in Italia, non solo in questo caso specifico che appunto sei andata a scoprire e a raccontare tu, ma in generale c'è mancanza di documentazione, c'è mancanza di libri che raccontano quella che è la storia delle lesbiche in Italia, c'è un rimosso collettivo molto forte. Secondo te perché c'è questa situazione? Ma ci sono, come dire, dal mio punto di vista, una serie di cause che poi, insomma, trovano tutte il loro sostrato nell'eteropatriarcato, chiaramente. Ma diciamo che il silenzio, la cancellazione è questo, insomma, non lo dico solo io, lo dicono tante studiose, è proprio, come dire, il dispositivo specifico che si attua nella repressione del lesbismo. Anche in altri paesi la persecuzione dei gay è stata, come dire, più basata proprio anche laddove ci sono state leggi, a volte ci sono state leggi contro gli atti omosessuali tra uomini e non contro gli atti omosessuali tra donne, proprio perché il dispositivo del silenzio ha funzionato di più sul lesbismo, e questo ha funzionato di più perché la storia delle donne viene rimossa e viene cancellata, perché l'accesso allo spazio pubblico delle donne è stato impedito fino al Novecento sostanzialmente, e quindi la cancellazione è proprio uno specifico. Quando poi si arriva alla storia delle lesbiche politiche si aggiunge un altro tassello, cioè il fatto che le lesbiche fossero attive in due movimenti che erano quello omosessuale e quello femminista ha fatto sì che poi al suo interno si sia dato poco spazio alla storia delle lesbiche rispetto nel movimento omosessuale a quella dei gay, nel movimento femminista a quella delle donne in generale, tanto che Adrienne Rich, che quindi non sto più parlando dell'Italia, sto parlando degli Stati Uniti, ma forse è un fatto, insomma, che si può allargare all'Occidente. Adrienne Rich, che è stata, insomma, una grande poeta e teorica del lesbismo e del femminismo, in uno dei suoi testi più famosi e sicuramente più produttivi in Italia, cioè in Italia è stato molto letto e citato questo testo, sto parlando di Eterosessualità obbligatoria, esistenza lesbica, questo è il titolo tradotto, insomma, in Italia è stato pubblicato per intero nell'85, e ecco, Adrienne Rich parla della necessità di non cancellare le lesbiche dentro il femminismo, fa proprio una sorta di richiamo alle femministe perché non si cancelli il lesbismo. Quindi diciamo che è una cancellazione che è nella storia delle donne da una parte e che poi ritorna nei movimenti. Fino ad ora abbiamo parlato principalmente degli anni 70 e di quello che è successo all'interno del movimento delle lesbiche negli anni 70. Che cosa è successo invece negli anni 80 e come mai è considerato il mitico decennio del lesbismo femminista? Il mitico decennio del lesbismo femminista, intanto insomma una definizione di Liana Borghi che volentieri ricordo, visto che purtroppo ci ha lasciato da poco tempo e che è stata sicuramente una figura centrale del lesbofemminismo italiano, e poi dopo lo è stata del queer, in qualche modo è stata una di coloro che ha portato il pensiero queer in questo paese. Negli anni è stato il mitico decennio, perché se nell'81 il lesbofemminismo nasce, si articola principalmente negli anni 80, si articola attraverso una serie di convegni nazionali, attraverso una serie di collettivi che nascono e che si sviluppano, il collettivo Lesbiche Italiane a Roma che ho già citato, le Papesse a Catania che ho già citato, ma anche in altre città, insomma ci sono realtà, il TIASO a Bologna, che è il gruppo di cui faceva parte Luchi Massa, che è un'altra compagna che ci ha lasciato e che voglio ricordare insomma in questa occasione, e poi a Milano il Phoenix e poi insomma Linea Lesbica Fiorentina a Firenze, come dice il nome stesso, e altri collettivi più piccoli che hanno avuto magari una vita più breve, il bollettino del Click era appunto la rivista intorno a, che era il giornale di questo movimento, un movimento che ha come dire anche lavorato molto sull'autoproduzione culturale, tanto che nasce dentro a questo movimento Estro, che è una casa editrice lesbica che pubblica 13 testi mi pare, che contribuisce appunto alla diffusione tra le lesbiche principalmente di testi lesbici. Non era la prima casa editrice lesbica, perché già nell'80 era nata la Felina, che era un'altra casa editrice lesbica, nata questa al governo vecchio, da quel contesto da cui è nato anche il collegamento Lesbiche Italiane. Il lesbofemminismo appunto è un movimento lesbico che porta nel nome il femminismo, perché è un movimento separatista che nasce in qualche modo dal femminismo, tanto che nasce per lo più nei luoghi del femminismo, ma che via via che si va avanti negli anni Ottanta in qualche modo si stacca sempre più dal femminismo, ma anche perché contemporaneamente cambia il femminismo. Per esempio negli anni Ottanta diventa egemone nel femminismo italiano il pensiero della differenza, con cui il movimento lesbo-femminista ha un rapporto abbastanza conflittuale, proprio per la lettura di insignificanza politica che dà il pensiero della differenza al lesbismo. È appunto un movimento, il lesbo-femminismo, poco di piazza, l'unica piazza proprio autogestita che ha messo in piedi il movimento lesbo-femminista è stato nell'81 a Roma, a Piazza del Pantheon. Ci fu una manifestazione per un fatto che fra l'altro era successo ad Agrigento, e cioè per il fatto che erano state arrestate due ragazze che si baciavano in un parco. Ricordiamo l'anno di questo evento, perché secondo me è particolarmente significativo per capire. Era l'81. Nel 1981 due ragazze che si baciavano in un parco erano state arrestate e, se ben ricordo, anche condannate. Anche condannate, sì. Poi sono state anche condannate. Quel fatto molto significativo ebbe più eco a Roma che non in Sicilia, per assurdo, perché andò sui giornali, uscì un piccolo trafiletto su un quotidiano che non ricordo qual era, che fu letto mentre c'era un festival del cinema femminista in Campania, e da lì quindi chi era a quel festival fece un comunicato stampa e poi a Roma ci furono quindi delle assemblee che dettero luogo a questa manifestazione, che è stata l'unica manifestazione che di per sé ha organizzato il movimento lesbo-femminista, perché poi per il resto soprattutto partecipava alle piazze del movimento femminista, quindi ai vari cortei dell'8 marzo. Il primo a Roma in cui c'era uno spezzone lesbico è stato il 79, ma già nel 78 per esempio c'era uno spezzone lesbico a Torino. E poi ci sono state le manifestazioni contro il nucleare contro il nucleare a cui ha partecipato il movimento lesbo femminista, ci fu un grande corteo a Roma, le manifestazioni contro la violenza sessuale per ricordo insomma che all'epoca il reato, lo stupro era ancora considerato dal diritto un reato contro la morale e non contro la persona. Ci fu un movimento negli anni 80 per cambiare questa legge, che poi ha avuto il suo epilogo nel 96, è stata cambiata la legge. Quindi un movimento che era un movimento separatista e che soprattutto costruiva all'interno più che all'esterno, cioè costruendo degli spazi di vita e degli spazi culturali e degli spazi di incontro. Tutto questo in alcune città, perché si torna al fatto che poi l'Italia è fatta di tanta provincia. Il bollettino serviva da collegamento e quindi a questi spazi, soprattutto agli eventi nazionali, poi partecipavano anche lesbiche che arrivavano appunto dalla provincia, tanto che una delle donne che ho intervistato parlava di transumanza lesbica, un termine chiaramente ironico, per dire che ci si spostava molto, soprattutto dalla provincia verso la città, per poter partecipare e vivere questi eventi. Quando si arriva nella seconda parte degli anni, era un movimento che diciamo aveva una bassissima visibilità mediatica, quello del lesbofemminismo, aveva una visibilità mediatica nei giornali di donne, ma sui giornali mainstream diciamo la visibilità era relegata a qualche trafiletto quando c'erano i grandi convegni nell'83 a Bologna, nell'85 a Roma, nell'87 a Firenze eccetera, e tanto che poi nella seconda parte degli anni 80 rinasce anche un attivismo lesbico non separatista dentro Arcigay, che era la maggiore. Arcigay nel frattempo Arcigay diventa associazione nazionale nell'85, ma era nato nell'82, e dentro Arcigay cominciano a frequentare Arcigay anche alcune donne, e in particolare un po' in tante città, ma diciamo poi ha avuto una particolare produttività la presenza lesbica nel gruppo Arcigay di Verona, perché all'Arcigay di Verona arriva Graziella Bertozzo, che poi sarà la prima segretaria nazionale donna di Arcigay, lo diventerà nel 90, nel frattempo a Verona il gruppo delle lesbiche che si forma insomma nell'Arcigay acquista anche un nome, che è Arcigay Donna, un nome, racconta Graziella, nato un po' per caso, per la verità, diciamo che lo metto in relazione alla mancanza di visibilità del movimento lesbo-femminista, perché le lesbiche che danno vita a un attivismo lesbico dentro Arcigay, inizialmente Graziella stessa racconta, io non conoscevo l'esistenza del lesbo-femminismo, perché si tratta di donne che vivono in altre città, che magari non hanno avuto accesso al movimento femminista, e quindi è una nascita parallela, ma che poi l'incontro avviene subito dopo, non è che ci mette molto tempo, ma è come dire, questa mancanza di visibilità e di storia, di racconto dell'attivismo lesbico fa sì che se si ripercorre la storia si scopre che le prime volte si moltiplicano, perché molte volte delle lesbiche organizzano qualcosa che pensano sia la prima volta, ma in realtà magari c'è già stato qualcosa in un'altra città o in un altro anno. E è un po' questa la storia anche della nascita di Accidenti. Continua donna. Quindi cancellazione della storia delle lesbiche anche all'interno della stessa comunità lesbica, in qualche modo, all'interno dei collettivi, delle organizzazioni che per vari motivi dimenticano frequentemente quello che c'è stato prima o semplicemente non lo conoscono, non sono... Non lo conoscono perché non ha avuto visibilità. E quindi la cancellazione, se manca la visibilità, è facile. Hai intenzione di portare il lavoro che abbiamo raccontato durante questo podcast, che continueremo a raccontare magari in qualche altra puntata, di portare avanti questo lavoro e di continuare questo lavoro di ricerca che hai fatto per scrivere questo libro, o quali sono gli altri riferimenti che ci puoi dare? Allora, per quanto riguarda continuare, ma innanzitutto c'è da rendere un po' esplicito, no, gli strumenti storici a cui io ho attinto. Il problema molto grosso sono state le fonti, perché appunto in un panorama di cancellazione le fonti sono molto complesse, tanto che in qualche modo il corpo più significativo delle fonti del mio studio l'ho dovuto costruire attraverso interviste alle protagoniste dell'epoca. L'altro settore delle fonti sono quelle d'archivio, quindi volantini, atti di convegni, i giornali, eccetera. E l'ho potuto fare questo lavoro, insomma, ci tengo a dirlo, anche grazie a una grande generosità che sinceramente ho trovato nelle donne che ho intervistato, negli archivi. Sto parlando di Archivia qui a Roma, ma anche di altri centri di documentazione come quello dell'Archivio Santropenna, del Morisse, di Azione Gay Lesbica, eccetera, ma una grande generosità anche nelle donne che ho intervistato, che poi mi hanno fatto conoscere altre donne, mi hanno aperto i loro cassetti, mi hanno regalato foto, lettere, eccetera. E questa è stata una generosità, non è che non mi aspettassi, ma che mi ha quasi travolto, devo dire la verità, e che credo si basasse però in parte anche su una sorta di empatia, no, tra me che intervistavo e loro che intervistavo, nata da una condivisione che è quella dell'attivismo lesbico, che per me è stata nel periodo successivo. E qui arrivo a rispondere alla tua domanda. Ci sto pensando da quando il libro è uscito a andare avanti in questo studio, soprattutto di raccontare gli anni 90, che anche quelli stanno sparendo nella memoria collettiva come sparivano gli anni 80, insomma. Ma per me si tratta di trovare un altro passo, perché io ho cominciato a far politica come lesbica all'inizio degli anni 90, e quindi si tratterebbe, come dire, di un racconto interno in cui c'è un io narrante che partecipa, e quindi non lo so, devo ancora trovare il modo in qualche modo. Speriamo tutte e tutti che continuerai questo lavoro, perché abbiamo decisamente bisogno di conoscere di più e di documentare di più quella che è la nostra storia, alla fine, la storia del movimento LGBTQ e in particolare la storia delle lesbiche in Italia. Questo ti ringrazio. Negli ultimi anni comunque stanno uscendo diverse pubblicazioni rispetto a prima. Ho fatto già riferimento, per esempio, insomma, al testo di Massimo Prearo. Massimo ne ha scritti anche altri, ma voglio fare riferimento anche a Queer di Maya De Leo, che è un testo diverso, perché è un testo che prende in considerazione, diciamo, Europa e Nord America, ma anche voglio fare riferimento anche alla casa editrice Asterisco, che è una casa editrice diciamo di movimento, che con la sua collana Eresia ha ripubblicato tutta una serie di testi storici che erano completamente scomparsi, perché a partire dai movimenti omosessuali di liberazione di Maria Silvia Spolato, che Asterisco ha ripubblicato nel 2019, quello per esempio era un testo pubblicato nel 72 che era scomparso, si trovava giusto alla Biblioteca Nazionale o a Archivia qui a Roma, come quelli Asterisco ne ha ripubblicati altri, dalla Traviata Norma, ora dico a braccio quelli che mi vengono in mente, insomma dalla Traviata Norma di Mario Mieli e dei Com Milanesi, a Il Nostro Mondo Comune, che è un testo che voglio citare perché fa proprio parte della storia che abbiamo raccontato. Il Nostro Mondo Comune si intitola, ha come sottotitolo un contributo del CLI al dibattito aperto dal gruppo numero 4 di Milano, si tratta della risposta del lesbofemminismo al pensiero della differenza in qualche modo, e in particolare al documento che era uscito nell'83 della Libreria delle Donne di Milano, Più Donne che Uomini, dentro il numero del sottosopra che viene ricordato come sottosopra verde. Quindi insomma queste ripubblicazioni sono anche occasioni, no, per dibattere di nuovo dei contenuti, delle prese. Questo per esempio, Il Nostro Mondo Comune, è un'importante presa di parola del lesbofemminismo che era completamente scomparso, se teniamo conto che è stata sicuramente l'unica presa di posizione organica di critica al pensiero della differenza nel nostro paese, quando per esempio è stato in paesi come gli Stati Uniti, per esempio è una riflessione portata avanti dal tutto il black feminism, ecco, questo testo era completamente scomparso. Scomparso tanto che neanche le lesbiche militanti lo conoscevano, ecco. Quindi sono opere di ripubblicazione che hanno una loro importanza, direi, molto, molto rilevante. Approfitto anche per ricordare il tuo libro, che è L'emersione imprevista, il movimento delle lesbiche in Italia negli anni 70 e 80, per la collana Altera delle edizioni ETS. E, grazie mille Elena Biagini per essere stata con noi, è stata una chiacchierata decisamente interessante, spero approfondiremo ancora e magari anche con gli anni 90 e i 2000 nella tua prossima pubblicazione. Voglio solo concludere ricordando che la collana Altera era diretta da Liana Borghi e Marco Pustianaz, che il mio libro è stato fortemente, nasce da una tesi di dottorato, ma nella sua pubblicazione è stato fortemente voluto e sostenuto sempre da Liana Borghi, che credo sia veramente importante ricordare. E che ricordiamo molto molto volentieri. Grazie mille. Grazie ancora e buona lotta e buona continuazione. Grazie a voi.